Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Buon sabato a tutti voi cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli e anche da Pietro Lacorte in regia. Dunque una settimana da raccogliere in 50-48 minuti scarsi, non è facile, davvero molta informazione, molte novità, notizie dall'Italia e dal mondo. Ma allora da qualche parte dobbiamo iniziare, comincerei dal fatto che dobbiamo ricordare che il tempo passa, rimangono 8 mesi di attività per il governo Monti, moltissime cose da fare. L'Europa ci dice e noi diciamo all'Europa che cresce il senso di necessità di accelerare l'unione dell'area euro, le sue politiche, insomma che qualcuno risponda al numero di telefono dell'Europa, come gli americani dicono da tanti anni, citando la frase di Kissinger. E poi ci sono tutte le questioni strettamente interne, quindi un terremoto, non dimentichiamolo, in questa settimana abbiamo tanto parlato appunto del vero e proprio bombardamento di notizie che quasi rischiamo di dimenticare le complessità, le difficoltà di chi vive ancora quotidianamente gli effetti del terremoto in Emilia. Cercheremo di fare un aggiornamento anche su questi aspetti. Poi c'è una grande pagina internazionale, qualcosa si è davvero mosso in maniera violenta nel Mediterraneo orientale questa settimana, un promemoria, ne parleremo più tardi, di fatto i militari in Egitto che cancellano l'Assemblea Nazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le elezioni egiziane che si sono svolte ormai qualche settimana fa, e mi riferisco alle parlamentari non alle presidenziali, non valgono nulla. Nelle prossime ore sarà importante capire quale sarà la reazione del partito di maggioranza, dunque Fratelli Musulmani, della piazza, che in queste ore vede tradita la rivoluzione, chiamiamola così, le manifestazioni di piazza Tahrir. Stesse giornate, condanna a morte per condanna all'ergastolo per l'ex presidente della Tunisia. Insomma, il Mediterraneo del Sud in una fase di estrema gravità, complessità, che soltanto tutti i nostri problemi economici quasi rendono poco visibili. E partiamo proprio dal terremoto. Oggi a Bologna, intorno alle 17.30, il premier Mario Monti e il sottosegretario Antonio Catricalà incontrano il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani per discutere appunto dell'avanzamento dei lavori, delle necessità, insomma di tutte le problematiche legate al terremoto, che sono molte. In settimana altre due scosse, martedì era forte in provincia di Modena, in alcune località come San Possidonio, Concordia sulla Secchia, Cavezzo, hanno registrato in maniera violenta appunto il sisma. Ma questa settimana abbiamo anche raccolto, e mi piace condividere con voi, un intervento di un'imprenditrice che racconta a Radio 24 in che modo, insomma, reagisce rapidamente per rimettere in pista, in attività, la sua attività imprenditoriale. Sentiamola. Praticamente se io avessi dovuto, aspettare i famosi documenti, chiamiamoli così in generale perché ancora non si capisce di che cosa si tratta, ma comunque un documento che certifichi che un dato stabile è agibile, e io sarei ancora fermissima. Cioè praticamente dal 20, quindi guardate quanti giorni sono passati, più di 20 giorni, io avrei dovuto rimanere ferma con gli ordini, ferma con io vendo in 76 paesi, anche se sono molto piccola, quindi immaginate un po' che situazione si sarebbe venuta a creare. E io ho chiamato dei tecnici, io privati, per giudicare gli stabili. Uno è stato giudicato inagibile e aspettate le 72 ore che erano di legge del sindaco, come decreto del sindaco, abbiamo con la famiglia, ripeto, abbiamo praticamente buttato giù tutto dalla finestra su dei materassoni e 4 giorni dopo siamo operativi, eravamo insomma praticamente dal momento in cui è scattate le 72 ore, tendoni, aria condizionata, telefoni, computer e spedizioni.

dello sviluppo e ribadisce, lo avevamo detto fin dall'inizio, dunque faceva parte fin dall'inizio del progetto del governo. Passera ieri ha detto: per trovare risorse occorre puntare sulla lotta all'evasione, sulla spending review e la valorizzazione dell'asset pubblico, tre leve che ora devono andare in parallela. Sul valore appunto degli asset pubblici in vendita, interrogativi e anche un certo scetticismo, se vogliamo, tra questi Gustavo Piga, economista a Tor Vergata a Roma, ospite a Focus Economia. Sono due tipi di perimetro: il primo perimetro dove vedo delle criticità è il perimetro temporale, nel senso che se pensiamo a raggiungere delle dimensioni un minimo ambiziose, non credo che nel giro dei prossimi sei mesi, prima di sei mesi, riusciremo a dare al mercato dei segnali forti. Il secondo perimetro rilevantissimo, ancora più rilevante, è quello dimensionale. Non credo che ci siano spazi di nuovo nei prossimi sei mesi, un anno, per riduzioni, insomma gettito che entra da vendita di patrimonio, che sia societario o immobiliare, al di sopra del 4-5% di prodotto interno lordo, e quindi con un effetto sul rapporto debito-PIL non enorme. La crisi europea questa settimana è entrata a pieno titolo anche nella corsa presidenziale degli Stati Uniti. Allora magari vi chiederete: cosa c'entrano questi due temi? C'entra. Allora cerchiamo di ricostruire per sommi capi. Circa 11 giorni fa per essere precisi, il dato sull'occupazione americana che torna a peggiorare oltre le attese. Tre giorni dopo i democratici vengono sconfitti nelle by-election, nelle elezioni per il governatore del Wisconsin. Immediatamente, la sera stessa, la sera americana, Bill Clinton, ovviamente sostenitore del presidente Obama, dichiara pubblicamente: il dato sulla disoccupazione che torna a crescere negli USA è colpa dell'economia dell'area euro che non cresce. Seguono un paio di scambi di note, diciamo cortesi ma piccati, tra le due sponde dell'Atlantico, ma tant'è. Insomma, questo tema si insedia letteralmente anche nella campagna presidenziale. Il grande alleato americano, anche oggetto davvero di un grande entusiasmo dalla nostra parte dell'Atlantico, e non solo, ovviamente mi riferisco al presidente degli Stati Uniti, cerca di smarcarsi da una posizione che gli rende complicata la vita. Allora, su questo grande tema sentiamo cosa ha detto Edward Luttwak, ospite di Oscar Giannino, invece declinandolo sulla popolarità di Mario Monti negli Stati Uniti. Beh, su Monti credo c'è una grande delusione, perché Mario Monti è una persona molto conosciuta. C'era un programma Mario Monti che è stato presentato per molti anni alla conferenza di Ambrosetti ogni anno. Questo programma partiva dal premessa che l'economia italiana è ingessata da regole, tariffe e restrizioni che non ci sono altrove. Cioè, tu sei un laureato farmacista eppure non puoi vendere farmaci se non sei membro di una casta. I notai fanno un servizio sempre meno importante, ma comunque non hanno diritto di fare la reclame per offrirsi a vicenda a prezzi più bassi, come in ogni professione di ogni mondo. I negozi non hanno diritto di aprire e chiudere quando vogliono, non hanno diritto di vendere quello che vogliono. E tutte queste stupide, inutili, medioevali restrizioni che ingessano le economie italiane, con un Presidente della Repubblica come Napolitano, che capisce queste cose, le capisce a fondo, pronto a firmare i decreti, per quale ragione il governo Monti non fa questi decreti che ci sono urgentemente bisogno? Questo era Edward Luttwak, che invece, a proposito di, come dire, questa è stata un po' la settimana delle valutazioni davvero da destra a manca, da sinistra, da ogni lato sull'operato di Monti. Possiamo, prima di chiudere, segnalarvi anche un Benigni su Monti che dice: dove lo metterei io? In purgatorio, non me lo fate mettere all'inferno, dice Monti, lo metterei in un bel canto del purgatorio, dolce, dice Benigni. E sulla settimana difficile, sulle giornate complesse del primo ministro, sentiamo il commento di Stefano Folli. Le giornate di Mario Monti sono difficili e lo saranno sempre più, almeno fino al vertice europeo di fine giugno. Ieri, ad esempio, il Premier ha vissuto un condensato di quei problemi che lo accompagneranno ancora a lungo. Ha parlato alla Camera un linguaggio di verità ha ottenuto il sostegno aperto dei tre partiti della maggioranza sull'Europa. Ma è un sostegno che da solo non basta a garantire che il governo italiano sarà ascoltato dalle cancellerie dell'Unione con l'attenzione necessaria. Perché questo accada ci vorrebbero le riforme, ci vorrebbe quel rinnovamento che tutti invocano in Italia e poi non sanno realizzare. È questo che i nostri partner europei, ma anche l'America di Obama, attendono dall'Italia. Ed è molto complicato ottenere qualcosa in questo campo da partiti che non riescono o non vogliono scrollarsi di dosso l'immagine di coacervo conservatore, fonte di resistenza passiva per ogni programma di modernizzazione. E basta vedere la fatica e i compromessi che rappresentano il costo della legge contro la corruzione. Alla fine il testo ha ottenuto la fiducia, ma ha richiesto un lavoro estenuante. Quindi Monti può vedere la realtà. Da un lato un facile viatico europeo, che però lo lascia solo a confronto con i capi dell'Europa, con Angela Merkel. Dall'altro il passaggio della legge anticorruzione, ma quanto impegno ci è voluto. Onore al ministro Severino, ma la strada di Monti è in salita. Lui lo sa e tiene il campo, ma fino a quando? Ancora buongiorno da Gigi Donelli, al microfono da Pietro Lacorte in regia. Dunque, ci siamo lasciati con il commento di Stefano Folli sulle giornate complesse davvero di Mario Monti e riprendiamo su uno dei temi direi di settimana, ma temi correnti. Molti ci chiediamo cosa succederebbe se davvero l'euro non ci fosse più, che cosa accadrebbe del nostro sistema bancario, ma soprattutto del nostro meccanismo di vita quotidiana, dei bancomat, insomma, che cosa potrebbe davvero succedere. È una questione che è stata posta ieri mattina a Oscar Giannino, sentite la risposta. In caso di ritorno a una lira, bisognerebbe vedere se quella lira è, come oggi propone Francesco Forte, collegata a un rapporto di cambio fisso con l'euro oppure no, o fosse libera di svalutare. Ovviamente per incamerare il massimo vantaggio per la ripartenza dovrebbe essere libera di svalutare. A oggi sappiamo che noi abbiamo più o meno 30 punti di competitività meno della Germania, però io credo che la svalutazione iniziale sarebbe inferiore a 30 punti perché abbiamo comunque in posizione netta finanziaria sull'estero, bilancio di pagamenti e commerciali, e l'equazione un po' complessa per calcolarlo, diciamo che la svalutazione potrebbe essere tra il 25 e il 30%. Questo significa che tutto ciò che verrebbe ridominato, ridenominato, se tornassimo alla lira per qualche giorno, bisognerebbe fermare le banche, bisognerebbe adottare lo stop alla libertà dei capitali in uscita, non funzionerebbero per un giorno o due, almeno nella migliore delle ipotesi, ovviamente i bancomat, saremmo tutti bloccati e a quel punto si ridenominano sia le attività che le passività, quindi i debiti compresi, la nuova valuta. Quelli che restano sull'estero, attenti che però non si ridenominano, quindi chi ha passività sull'estero si trova poi con i debiti moltiplicati con catene di fallimento. Questo è quello che purtroppo avverrebbe, secondo me, in un ambito di 25-30%, a cui si sommerebbe a quel punto l'inflazione galoppante che, ripeto, è un'illusione monetaria perché fa solo un favore a chi è molto indebitato, cioè allo Stato. Quindi chi è nostalgico della lira sappia che, un po' come avvenne in Argentina, si passa attraverso una botta di verticale di diminuzione del valore reale comparato su scala internazionale di quello che uno ha in cassa e di quello che uno ha in termini di patrimonio, anche capitale fisico, perché ovviamente va tutto ridenominato in una moneta che vale molto molto meno. Punto e a capo. Una botta, a proposito, come dice Oscar Giannino, arriverà comunque vada domani dal voto greco. Comunque vada perché da una parte, diciamo per estrema sintesi, un centrodestra, una destra che ha già detto rispetteremo, diciamo, i piani europei, dall'altra parte Syriza, la sinistra radicale guidata da Alexis Tsipras, che vuole invece rinegoziare i termini dell'accordo. Insomma, comunque vada, domani un giorno importante per l'Europa, naturalmente gli aggiornamenti in diretta su Radio 24. Chi invece ha, come dire, avuto questa settimana dei problemi francamente imprevisti è stato il presidente francese François Hollande. Imprevisti perché mentre girava, come direi tutti i suoi colleghi fanno in questi giorni, le capitali tra Roma, Londra, la Germania, eccetera, eccetera, l'imprevisto gli è arrivato da Twitter e da una manciata di caratteri, meno di 140 ovviamente, postati dalla sua Premier Dame. Sentiamo. Finora era andato tutto liscio come l'olio. Il debutto di François Hollande sulla scena interna e internazionale era stato pressoché perfetto. Il primo turno delle elezioni politiche di domenica scorsa aveva annunciato la conquista della maggioranza assoluta alla Camera da parte dei socialisti, in attesa della conferma, domenica prossima, con i ballottaggi. È bastato un tweet a guastare tutto, o quasi. Un messaggio di 135 lettere, inviato dall'attuale compagna del presidente, Valérie Trésvelair, a sostegno del candidato dissidente che alla Rochelle contende il seggio da deputato all'ex compagna di Hollande, Ségolène Royal, e che probabilmente vincerà con il sostegno di una destra gongolante. E così, mentre l'Europa si interroga sul proprio futuro, la Francia assiste attonita a uno spettacolo imbarazzante in cui si mescolano privato e pubblico, politica e ruggini femminili. Un vero peccato. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Restiamo nel Mediterraneo, anzi andiamo quasi al lato opposto del rettangolo mediterraneo, dalla Francia alla Tunisia. Tunisia, ve l'ho detto all'inizio, peraltro sbagliando, e lo ribadisco, il presidente, l'ex presidente della Repubblica tunisina Zine El Abidine Ben Ali è stato condannato da un tribunale militare all'ergastolo, non una condanna a morte come ho detto appunto sbagliando prima, invece la condanna è proprio per la morte degli oppositori durante la repressione della rivoluzione, insomma di quella grande di quel grande movimento che nel dicembre ormai di 2 anni fa ha innescato le prime trasformazioni del sud del Mediterraneo, trasformazioni che hanno poi davvero come una palla di neve, anche se poco si adatta allo scenario del sud, travolto l'Egitto, la Libia, una trasformazione che però ancora fatica a raggiungere un suo nuovo equilibrio. Sembrava in qualche modo un equilibrio possibile quello dei fratelli musulmani in Egitto, con una serie anche di rassicurazioni fatte all'Occidente, addirittura agli Stati Uniti. Bene, questa è la settimana in cui tutto viene rimesso in discussione. Sentiamo il servizio di Ugo Tramballi. I militari hanno guidato la transizione seguendo un percorso preordinato, hanno piegato le leggi secondo il loro disegno, sostituire il vecchio non con il nuovo ma con qualcosa di meno vecchio, inefficiente e corrotto del regime di Mubarak. Hanno manovrato per stabilire chi dovesse candidarsi alla presidenza, chi invece era fuori legge in base a leggi scritte da loro, non dal Parlamento, messo fuori legge anche quello. Ma se tutto questo è potuto accadere è perché la rivoluzione si è spenta. Poche centinaia di giovani ieri sera sono tornati in piazza Tahir a protestare. Lo spirito interpretato da quel luogo, capace di spingere il più grande dei paesi arabi a cacciare il vecchio regime, non c'è più. La gente è stanca e non crede più al grande cambiamento. Se davvero è il capolinea, la primavera egiziana non si è esaurita ieri con le decisioni della Corte Costituzionale controllata dai militari. Era finita da molto tempo. Ugo Tramballi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Il Cairo. Dal Cairo invece di nuovo negli Stati Uniti con Mario Platero, che ci fa il punto giovedì su quelle che sono appunto le complessità anche interne. Prima abbiamo parlato di come si sia reso di fatto più complicato in queste ultime settimane il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Europa. Adesso sentiamo che cosa accade all'interno proprio del grande spazio americano. Vi avevo fatto ascoltare la voce di Vladimir Putin già qualche giorno fa, perché? Beh, perché, come vi dicevo, ci sarà un vertice molto importante, un vertice molto teso, il vertice fra Barack Obama e il presidente russo Putin, il loro primo vertice in questa forma ufficiale. Perché il vertice è difficile? Beh, perché Putin resiste e l'Occidente attacca, come vi ho descritto poco fa. C'è un'azione congiunta dei francesi, degli americani, c'è un'escalation che cerca di portare a un possibile confronto militare in Siria, e c'è il rischio naturalmente che Israele intervenga. Lo scontro fra Stati Uniti e Russia sulle questioni medio orientali ha avuto anch'esso un'escalation negli ultimi giorni. Il segretario di Stato Hillary Clinton ha detto che la Russia, che Mosca manda elicotteri al governo siriano. La Russia controbatte e dice che l'America sta mandando fondi ai ribelli, ma Hillary Clinton dice no, noi abbiamo mandato soltanto aiuti civili. Sappiamo che non è vero, sappiamo che c'è l'intelligence che si muove. Insomma, abbiamo una polveriera medio orientale esplosiva, abbiamo il pericolo che da qui a poche settimane possano esplodere due guerre, una per mandato dell'ONU, l'altra perché Israele alla fine decide di attaccare l'Iran, e immaginate cosa può succedere se questo capita nel momento in cui la crisi economica e finanziaria non è stata ancora risolta per le lentezze europee. È uno scenario naturalmente al quale non vorremmo pensare, ma è uno scenario che potrà essere modificato nella sua versione più pessimistica soltanto da un accordo fra Putin e Obama. Vi dicevo che la relazione fra i due capi di Stato e di Governo è molto tesa. And so it is a high honor for me to bestow this statesman, this warrior for peace, America's highest civilian honor, the Presidential Medal of Freedom. And I'd ask you to please join me in welcoming President Perez to the presentation. Barack Obama naturalmente cerca di gettare acqua sul fuoco, soprattutto per la questione israeliana. L'occasione c'è stata ieri alla Casa Bianca. Il presidente ha consegnato la Medal of Freedom, che è la più alta onorificenza civile americana, a Shimon Peres, e ne ha approfittato per dare un messaggio molto chiaro a Gerusalemme. Ha detto Barack Obama: certo, sappiamo che la sicurezza di un paese, soprattutto di un paese come Israele, dipende dalla forza, dalla dimostrazione di forza, ma non soltanto da quello, dipende anche dal contenuto etico delle sue azioni, dalla sua azione morale. E ha ricordato le scritture bibliche secondo le quali non si deve soltanto cercare la pace, ma si deve raggiungerla e si deve poter costruire. Di nuovo un messaggio indiretto a Netanyahu, perché abbia pazienza e perché eviti di imbarcarsi in una operazione bellica che potrebbe essere disastrosa contro l'Iran nel momento in cui si sta ancora, anche se con difficoltà, cercando una soluzione diplomatica. E questo era dunque Mario Platero, un estratto dell'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì, America 24 alle 13:15. Concludiamo questo viaggio attraverso il nostro pianeta facendo tappa a Londra. Londra bellissima, Londra tirata a lucido ormai pronto, naturalmente Londra olimpica, ma anche carissima Londra. Allora Paolo Panceri ha fatto il punto anche per offrire qualche soluzione possibile a chi magari avesse un sogno olimpico ma non un budget illimitato. Che risuoni l'inno ufficiale di apertura delle Olimpiadi, un record che Londra ha già battuto prima dell'inizio dei giochi è quello di città più costosa del mondo. La metropoli britannica infatti ha superato Parigi in un sondaggio elaborato da TripAdvisor delle capitali dove è più costoso passare una serata. In occasione delle Olimpiadi, che iniziano il 27 luglio, Londra è diventata quasi inaccessibile. In media, infatti, un pacchetto che comprende biglietti d'ingresso ai giochi, viaggio aereo e soggiorno può arrivare a 8.000 euro. Per evitare quindi che lo spirito sportivo venga soppiantato dal libretto degli assegni, ecco il camping a prezzi economici. È il Camping at the Games, 10 campeggi vicini ai siti olimpici, dotati di servizi completi, bagni, docce, lavanderia e ristorazione. Le tariffe sono di 12 euro a notte per gli adulti e 6 per i bambini. Chi non abbia o non voglia portarsi la tenda potrà prenotarla per 4 persone a 20 euro a notte già allestita. Il successo è stato notevole. Le adesioni hanno già raggiunto quota 4.000 e i visitatori provengono da 26 paesi, soprattutto Stati Uniti, Canada e Giappone. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua, e con questo abbiamo concluso davvero la nostra pagina internazionale. Allora, tra qualche minuto, dopo avere sentito insieme gli aggiornamenti per chi è in viaggio, parleremo di libri, di letteratura, ma parleremo anche naturalmente di sport, e in primo luogo tutto questo in queste settimane, in queste giornate di inizio estate ormai imminente, significa evidentemente parlare degli europei. Gigi Donelli al microfono, Pietro Lacorte in regia questa mattina, ancora qualche minuto insieme per fare il punto su alcuni dei temi della settimana, e

insomma, metterci al riparo da sorprese, sperando che Spagna e Croazia facciano partita vera, facciano, ecco, loro vera. Facci capire, perché a me tutta questa cosa non è chiarissima. Dunque, cosa vuol dire parecchi gol? Non basta vincere? Non basta vincere, è chiaro che tutto dipende dal risultato dell'altra partita. Se una delle due vince, o Spagna o Croazia vincono la partita, a noi basta vincere, passiamo il turno e non c'è problema. Ok. Stesso discorso se dall'altra parte fanno un improbabilissimo 0-0, addirittura vincendo passeremo come primi del girone. Se dall'altra parte invece fanno 2-2, 3-3, 4-4, eccetera, allora a quel punto siamo a casa a prescindere dal numero dei gol. Il vero rischio è con l'1-1 di Spagna-Croazia, a quel punto bisogna battere il trap 3-1, 4-2 o con 3 gol di scarto. Insomma, complicata, peraltro ricorda pagine, esatto, già viste, no? Ci siamo ficcati nello stesso angolo in cui eravamo negli europei, in cui Trapattoni era la guida dell'Italia, gli europei portoghesi di 4 anni fa. Siamo nell'angolo in cui non abbiamo la certezza di poter decidere il nostro destino. È un angolo abbastanza scomodo, Gigi. Vabbè, dai, speriamo di tirarcene fuori. Lunedì le ultime partite, in questo caso del girone, la Spagna forte, o quantomeno, oddio, con Spagna. Noi ha sofferto, però ha sofferto, campione d'Europa e del mondo, cioè, confidiamo sulla forza della Spagna comunque per... Che giochi una partita naturalmente completa, seria, compiuta, che possa battere una Croazia che non mi è sembrata irresistibile contro l'Italia. Avevamo molta paura di questo avversario. Corrono molto, pressano molto, però non mi sembrano un granché. Direi che una Spagna normale può battere senza troppi problemi la Croazia. Una Croazia abbastanza uguale a se stessa, anche giovane, veloce, alta, eccetera, ma sì, non proprio irresistibile. Il trap, brutto, insomma, una finale con delusione. Sì, il Trap è un peccato, perché è l'unica squadra, è stata la prima squadra ad uscire matematicamente da questo europeo. Un peccato, chiaramente vorrà chiudere la sua avventura sulla panchina dei Verdi con tutto l'orgoglio e l'onore possibile. Anche lì non c'è da dubitare sul fatto che sarà comunque partita vera. È chiaro che l'Irlanda, onestamente Gigi, è la peggior squadra vista in questi europei fin qui, dove non abbiamo peraltro visto degli squadroni, anzi devo dire che una delle migliori è la nostra Italietta, che è lì nel recinto di coloro che sono sospesi. E speriamo che possa giocare non solo 90 minuti, ma molti altri minuti. Grazie a Carlo Genta. A voi. Noi con... il calcio europeo arriviamo alla conclusione, grazie a Pietro Laccorte, da parte mia naturalmente l'augurio di un ottimo fine settimana. Vi ricordo solamente www.radio24.it per il nostro archivio, enorme archivio, di storie, di racconti e di riascolti di settimana. E allora con questo abbiamo concluso, settimana prossima.